You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Buonasera a tutti da Valentina Furlanetto. Ancora una volta ci introduce la voce del doppiatore italiano dell'indimenticabile Spencer Tracy, protagonista del film da cui prendiamo spunto, Indovina chi viene a cena. I temi del film restano attuali, ma noi pensiamo che si possano superare, quindi pregiudizi razziali, coppie miste, integrazione fra culture. Come a volte a tavola superiamo certe nostre avversioni, può capitare di avere un pregiudizio negativo verso un cibo e poi scoprire invece di non poterne fare a meno. Insomma, a tavola come nella società, nella vita, i gusti cambiano e anche quest'Italia sta cambiando. Stasera parliamo di cucine e ricette per raccontare una storia di migrazione, una storia di alta cucina, perché questa sera invece che un nuovo italiano incontriamo un'italiana di ritorno, una migrante d'eccezione, una grande chef. Buonasera Lidia Bastianic. Buonasera Valentina. Parliamo di cultura e cucina. Spesso si parla di cucina per parlare della nostra identità. Credo che lei possa essere d'accordo, no? Io sono l'esempio, diciamo. Cucina è cultura, cucina riflette chi siamo, insomma il nostro profilo. Lei è una cuoca, una scrittrice, un personaggio televisivo italiano, ma in realtà anche forse quasi più famosa in America, dove è emigrata. Cosa ci cucina questa sera? Qual è la ricetta che ci regala? Primavera, una bella zuppa di asparagi selvatici, dell'ortica, di pietole, di un po' di... E poi alla fine... aggiungi questa bella zuppa con una base di cipolle anche primaverili, un po' di olio buono, molto leggero, un po' di peperoncino mi piace, e poi alla fine quando sto cucinato, quando hai strato bene giusto, aggiungi un po' di ricotta fresca. Un tocco particolare, molto fresco, in effetti adatto alla stagione, con questo asparago selvatico che si usa molto nel nord Italia, no? Sì, noi lo usiamo molto. E allora, poi andiamo molto a raccogliere anche le erbe spontanee, su in Friuli c'è il sclopit che si fa del grandi risotti col sclopit frittate, di tutto. Lo so, sono veneta e quindi siamo confinanti, anch'io ricordo queste erbette che si vanno a raccogliere, quindi identità anche qui, un'identità che nasce in Istria, no? Negli anni 40, lei ha avuto una storia molto particolare, vorrei che ce la raccontasse. Sono nata nel 47 a Pola e dunque il tempo proprio che i titini, insomma la guerra era finita, la storia dell'Italia e l'Istria viene data a Tito e dunque comunismo. Io ero nata in febbraio, dunque proprio si è chiusa la frontiera. Perché mia madre, sai, c'era un grande esodo di noi italiani, 350.000 istriani di origine italiana sono ritornati, un po' scappati e andati per il mondo, e dunque noi siamo rimasti lì perché era così, ero appena nata, e dopo 10 anni, nel 56, la mia famiglia ha deciso di ritornare in Italia, di scappare. A quel punto si doveva veramente scappare. E dunque io, mio fratello e mia madre, io avevo 10 anni, siamo andati come turisti perché avevamo dei cugini a Trieste, delle zie, E mio padre è dovuto letteralmente scappare la frontiera, gli hanno anche sparato tutto, ma è arrivato grazie al cielo. E a Trieste la vita è bellissima, siamo ritornati un po' in libertà, però difficile economicamente per la famiglia. Allora mi hanno deciso di andare, di mettersi in campo, siamo andati in campo San Saba, campo profughi, siamo rimasti per 2 anni lì, fino a che l'America, era Dwight Eisenhower il presidente, ha aperto le porte e ha accettato dei profughi politici come eravamo noi. E nel 58 siamo andati in America con The Catholic Relief Services. Il Vaticano a suo tempo, dopo la guerra, prendeva cura di questi migranti, e dunque a noi la Chiesa ci ha portato in America, a New York. Ci ha sistemato un po', ho trovato un posticino, ho trovato un lavoro per mio padre, e nel 58 abbiamo iniziato la nostra vita in America. Vi faccio sentire una musica. L'avrà riconosciuta, insomma. È una differenza, un'altra città un po' più lontano, ma insomma. Quindi una storia di migrazione proprio, e di successo. Lei è una migrante di successo. Sì, una migrante proprio vera e pura, come diceva sempre mia madre, siamo arrivati nudi e crudi qui. E quella lì era una realtà, perché non avevamo nessuno in America, dunque questo inizio dei miei genitori a lavorare, noi a scuola, però l'America è grande, dà tante di quelle opportunità. E vi ha accolto? Ci ha accolto con le mani aperte, tutto noi come bambini, i miei genitori, ci siamo sistemati bene, e poi la mia fortuna era, sa che io, parlavi tu di cibo, io... cibo era una cosa che mi ricordava, il cibo e anche la musica, e queste canzoni noi le cantavamo in America sempre a pranzo, che c'era una festa, dunque c'era il cibo e le canzoni che ci riportava questo. E io quando siamo scappati, diciamo, a noi bambini non ci hanno detto che si andava, e dunque io non ho salutato mia nonna, io avevo una connessione molto molto legata con mia nonna, è lì che ho anche imparato tanto del cibo, e allora questo strappo di mia nonna credo che è rimasto con me, e questo desiderio di ricatturare i cibi, i gusti che mia nonna mi aveva insegnato, dato, è diventata una passione per me veramente in quello che sono, perché volevo trattenere la mia cultura e il cibo era un modo. Quando hai imparato quindi a cucinare con la nonna? Sì, guarda, la situazione, come ho detto, quando è venuto Tito lì era un po' anche misera, dunque mia madre era una maestra, lei lavorava in città, ma a me mi ha messo con mia nonna, così mia nonna mi poteva portare in chiesa, tutto, in città non permettevano. E lì mia nonna aveva i polli, aveva il maiale, aveva la capra, cresceva tutto, dal pomodoro alle patate, facevamo l'olio, il vino, e io facevo parte, io ero la sua piccola servetta, se vuoi, dietro di lei, facevo tutte queste cose, il pane, si faceva la pasta, e dunque all'età di 7, 8, 9 anni io ero già coinvolta, e mi è venuta, insomma, questa passione è entrata in me, e poi per trattenermi legata alle mie radici ho continuato. È arrivata negli Stati Uniti molto piccola. Qual è stato l'impatto con questa cultura così diversa? Noi siamo arrivati lì, diciamo, con un'ansia di scoprire, di sapere, con anticipazione. I miei genitori un'altra cosa, mi ricordo che c'erano tanti di quei, tanti, mia madre, mio padre che la consolava, abbiamo fatto le cose giuste, però noi bambini eravamo sempre positivi, ma io sono forse anche, grazie al cielo, di questo carattere. Dunque, allora andiamo avanti, imparare l'inglese il più presto possibile, vedere le opportunità, fare delle amicizie. Per noi è stato un immediato, ricerco di cose nuove. Arrivare in una terra nuova, almeno è questo che dicono molti ospiti, si ha proprio voglia di mangiare, di afferrare, di imparare tante cose. Sì, sì, e poi vedi che è lì, e puoi prendere, puoi fare, devi fare le cose giuste. E dunque io non mi sono ancora fermata, sto raccogliendo. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. That's the glory of love. bentornati a Indovina chi viene a cena, la trasmissione di Radio 24 che parla di migranti. E oggi siamo con una migrante illustre, una migrante italiana che è andata in America e poi è tornata e ora è uno chef riconosciuto, anche un personaggio televisivo, un'imprenditrice. Si chiama Lidia Bastianich e ci sta raccontando qualcosa di questo suo arrivo in America bambina. Lidia, quando è arrivata e quando andava a scuola, i primi anni, non conosceva la lingua inglese, doveva abituarsi a tutto. Si è mai sentita diversa? Si è mai sentita discriminata in qualche maniera? Mi sono sentita anche diversa un po' all'inizio, sì, quando ho iniziato mi hanno messo in scuola e poi mi hanno tirato fuori dalla scuola e la maestra, che era anche una suora, mi ha seduto fuori sulle scale con un'altra ragazza perché che mi insegni l'inglese, perché io non parlavo, non capivo, e mi sono rimasta, ancora mi è rimasta, guarda, talmente forte nella mia memoria quel che mi ha messo fuori degli altri. Non mi sono sentita veramente differente, e c'erano di quei piccoli piccole situazioni, però è proprio quello che ti dà la forza, che ti fa crescere, che ti fa dire guarda, io devo superare tutto questo, devo andare avanti, e credo che è anche parte del mio successo. Si tu la parla miez americano, quando si fa la mola sotto la luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano. L'università l'ho fatto lì e ora mi sento molto americana. Devo sempre dire, e sempre lo dico, che io ho delle due più belle culture su questa terra, ce l'ho io, l'italianità e l'America. E dunque l'italianità che mi dà tutti questi buoni sapori, gusti, creatività, e l'America che mi ha insegnato anche a gestire, diciamo, le cose business wise e tutto. Ha avuto molto successo, ha cucinato per Papa Benedetto XVI, leggevo John Travolta, presidenti, star. Sì, Benini, Claudia Cardinale, tutti, guarda, passano di lì, vengono a New York, ormai New York è sempre un punto di fermata per Senta, tutti. E cosa odia cucinare? C'è un piatto che a lei non piace cucinare? Guarda, a me no, cilantro, si dice cilantro in italiano, una specie che assomiglia come sguardo al prezzemolo, però è prettamente messicana e ha un'intensità a me a di sapone. E dunque quello lì in assoluta non posso, guarda che io accetto, mi piace molto la cucina cinese, la vietnamese, la thailandese, tutte quelle cucine, adesso mi sto buttando un po' nella cucina indiana che è enorme quella cucina, dunque mi piacciono perché tramite la cucina, come mi ha detto, conosci un po' il più mondo, la gente e il posto, mi piace, certo, viaggiare, dunque allora l'unica cosa che non prendo mai in mia cucina è questo cilantro che devo pensare come si chiama in italiano. Ci informeremo. Invece da. Il suo piatto, diciamo, preferito, quando Lidia Bastianich c'è a casa e ha voglia di cucinarsi qualcosa per sé, che cosa cucina? Guarda, quando non ho voglia tanto di cucinare, un bel piatto di prosciutto con dei fichi belli maturi, se vado alla fighiera, come diciamo noi, è un bel bicchiere di vino bianco, io sono a posto. Però quando ho voglia di cucinare, mi risotto alla pasta o il risotto. Guarda, il risotto mi piace molto perché è molto, puoi farlo molto diversivo, stagionale, cambia le vesti, puoi cambiare il gusto, puoi cambiare a ogni giorno, diciamo. E c'è un piatto che non le è riuscito? Un dispiacere che le ha dato un piatto, perché magari quella volta non è venuto così bene. Ma succede a tutti, succede che la carne va stracotta, succede che fai una salsina e perché hai messo, non so, io non uso tante creme, ma cosa, la salsina o ti viene troppo salata, troppo ristretta, troppo molla. Dei sbagli ce ne sono anche lì, non è che... Come mai questi chef sono diventati delle star, no? Ultimamente... Ma io direi in America, quello che posso giudicare, perché gli americani si sono allontanati dal cibo. Nelle grandi metropoli le donne lavorano, questi cibi di convenienza, e dunque è successo che i bambini neanche non sanno che la gallina fa l'uovo, non sanno che le patate crescono intera. Dunque queste cose si sono allontanati talmente dal cibo e... anche questo problema di obesità, di nutrimento sbagliato, e tutto perché questa lontananza. E un po' fra la TV, i giornalisti, i medici, sai, gli americani una volta quando capiscono qualcosa prendono e partono, e allora tutta l'America è in questo spirito di sapere da dove viene il cibo, rispettare il cibo, che è la cosa giustissima, e di sapere come cucinare e usare il cibo. E di lì chi seguono, chi inizia questo? Qui sono i chef, no? Che l'hanno fatto da sempre, dunque sono i protagonisti, hanno iniziato a essere i chef. E poi sa cosa succede? Che le persone a casa forse non cucinano come un chef, però riescono a cucinare una cosa che ti riesce, anche se non hai fatto la scuola e tutto, una cosa più che ti viene naturale da, e dunque quando uno si mette in cucina può avere successo anche senza essere un specialista, guardando un po' di televisione, seguendo una ricetta, seguendo la ricetta della nonna, della mamma, anche riesci a fare un buon piatto. Dunque c'è il successo, c'è il nutrimento buono, e poi c'è il grande piacere di mangiare insieme, di nutrire qualcuno. Donne cucinano tutti i giorni, no? In casa, però poi gli chef spesso sono uomini. Come mai, secondo lei? Sì, è perché i chef hanno preso questo cucinare, l'hanno fatto una professione vera e propria, con i ristoranti, con gli alberghi, però alla base c'è la donna che cucina, che nutre, che ha sempre fatto così. Il chef solo, e credo che è successo anche tanto dopo la rivoluzione francese, dove tutti quei chef di corte non c'era più lavoro per loro, dunque hanno aperto questi piccoli ristorantini e si sono messo questo capello di un metro e avanti, no? Han preso la professione in mano, e adesso, perché un chef di professione usualmente fa il suo lavoro, viene a casa e poi è servito dalla moglie, no? La moglie che cucina più o meno, dunque per lui è un lavoro. Per me, io faccio nei ristoranti quel che faccio, ma vengo a casa, cucino ancora avanti e con piacere. Dicevamo che ormai gli chef sono delle star, e ormai anche delle star televisive, grazie a Masterchef, la trasmissione di Sky. Adesso è partita da qualche settimana Masterchef Junior, che ha come protagonisti proprio dei ragazzini, dei bambini che si dilettano in cucina. Non è difficile arrivare all'eliminazione come concorrente di un bambino? Beh, sì, è molto difficile. Guarda, io sono ho 5 nipotini, dunque quei protagonisti lì erano tutti l'età più o meno dei miei, e dunque era difficilissimo, guarda, vedere quei piccoli visetti, quelle manine che lavoravano, ma lavoravano come professionisti, e poi alla fine gli devi dire che non è buono, però la realtà è questa. Guarda, anche nei sport hanno delle competizioni questi ragazzi, non è che non sono abituati a qualcuno è meglio, anzi, è una bella lezione, è forse della vita, sano imparare che non sei sempre perdere. Il primo, che non sei sempre quello lì che devi accettare, ma che sei bravo comunque. E quello lì è il messaggio, guarda, che erano tutti bravi. Gli ultimi che noi abbiamo giudicato erano 40 di 3.000, dunque erano i migliori in qualunque caso, però a un punto si doveva decidere e uno doveva rimanere, e dunque abbiamo, come professionista, quando ha messo il piatto davanti a me, guardavo il piatto, assaggiavo il piatto, e a quel punto ero un giudice, e veramente le cose, sempre tenendole in proporzione all'età e tutto, no? E si dicevano le cose che doveva forse non fare. Una grande opportunità di anche fare di maestra, di insegnare a loro, e loro ascoltavano. Sì, tra l'altro cucinano dei piatti abbastanza complicati che probabilmente la maggior parte degli adulti non sa cucinare. Ti dico io, sì, assolutamente. Guarda, una ragazzina si è messa lì, non so, aveva 10 anni, ci ha presentato questo beef Wellington, sa, che insomma il filetto di manzo, poi in una sfoglia con un po' di spinacini, dunque l'ha fatto perfetto, la sfoglia era giusta, secca, croccante, la carne è cucinata a temperatura, ma ti presenta questo, dice: ci sono tanti chef lì fuori che non sanno farlo. Quando si può iniziare a mettere un bambino davanti ai fornelli? Appena nato, perché uno dei più forti sensi nei bambini è l'olfatto, no? Per quello lui sente l'odore della mamma, del latte, dunque inizia a esplorare il mondo in quel modo. Io con i miei, e suggerisco anche agli altri, con i miei nipotini e anche con i miei figli, quando erano 2 mesi ho iniziato a mettere sotto il loro naso il basilico, il rosmarino, tutti gli odori così, che loro il nasetto si muoveva, perché anche gli occhi, perché capivano che veniva qualche informazione che non conoscevano. E dunque si iniziano a fare questa libreria raccolta di conoscenze, di cibo, odori, di aromi. Aromi. Dunque non è mai troppo buon ora. Anche Gio Bastiani c'era in cucina con lei quando era piccolo. Sì, era sempre in giro. Io ci davo le padelle, non era tanto dei giocattoli di oggi, sa. Ci davo le padelle, ci davo il mestolo lì e lui batteva tutta forza. Adesso batte il tamburo, cosa so io, la chitarra. Sì, abbiamo sentito che si sta facendo largo nel mondo della musica, sorpresa. Sì. Ma le scuole servono per imparare a cucinare? In Italia si sono moltiplicate le scuole alberghiere, da 223 in pochi anni sono diventate 348. Ha un senso frequentare una scuola? Assolutamente, la scuola ha sempre un senso. Di educarsi bene in qualsiasi cosa, io sempre suggerisco ai ragazzi di educarsi bene prima generalmente del mondo, della storia, poi andare nelle cucine culinarie e iniziare a prendere questa professione. Però se uno ha la passione più o meno in cucina anche da prima, allora le scuole sono molto essenziali per le tecniche, per la base, come tagliare con i coltelli, come filettare un pesce, poi devi andare fuori e fare la pratica. Senta, di solito almeno a Masterchef i giudici si dividono le parti, no? Il buono, il brutto e il cattivo. E è chiaro che a Masterchef Junior lei è la buona. Gli altri due, qual è il rapporto con Barbieri e con l'altro giudice? Guarda, erano grandi, un team bellissimo, perché anche loro, severi professionisti, ognuno portava il suo, però c'era una dolcezza anche in loro, ecco, i bambini, di insomma dargli direzione, di spiegarli, non credo che sia nessun cattivo in tutti e tre. Io sì, faccio la nonna, la mamma, quello che vuoi, sono una donna, ma anche loro pieni di voglia di prendere questi bambini e di condividere con loro un po' dell'esperienza per farli meglio ancora. Dunque io mi sono divertita molto, un show veramente che ti prende positivo, e per me era un piacere essere lì con i bambini a vederli a cucinare, ad assaggiare, anche se avevo la difficoltà di poi scegliere. Un'ultima domanda, poi la lasciamo, la ringraziamo moltissimo. I bambini di solito odiano le verdure, no? Lei cosa consiglia di fare in questi casi, da nonna, da cuoca? Sì, ci sono differenti età per differenti verdure. Non è che tu puoi dare a un bambino di un anno il carciofo, mangiatelo così. Dunque c'è anche una, però puoi dargli i gusti cucinando in casa. Quando crescono sentono l'odore del cavolo, non è piacevole tante volte l'odore, però è buono, e non è che deve mangiarlo, intanto diventa conosciuto a loro. Dunque deve la mamma, la nonna, devono cucinare, devono dargli da assaggiare. Quando sono pronti, sono sicura che questi bambini inizieranno, però la cosa deve essere buona. Anche bisogna andare a prendere i bambini a fare la spesa, a conoscere in campagna, a vedere, a prendere il pisello un po' proprio dalla pianta, a sgusciarlo e provare quella dolcezza. Queste cose qui sono tutte cose importanti per portare i bambini a conoscere, a diventare amici delle verdure o di quello che vogliono mangiare. Vabbè, proverò. La ringrazio. La ringrazio. Figli hai tu? Io ne ho due, Camilla e Leonardo, odiano le verdure. Il risotto fa sempre, nasconde tutto, un bel risotto. È vero, è vero. Con infatti, un bel po' di grana. Infatti di solito è quella la via. Ah, ok, bene, continua allora. Grazie, buona serata a Lidia Bastianic. Ciao Valentina, ciao a tutti. Risotto agli asparagi selvatici e ricotta. Procuratevi gli asparagi selvatici, che di solito si trovano facilmente in primavera. Dopo averli puliti, eliminando la parte più dura del gambo, lessateli in poca acqua per circa 20 minuti dall'inizio del bollore, salando a metà cottura e scolando appena cotti, lasciandoli per qualche minuto nello scolapasta a perdere tutta l'acqua. Nel frattempo avrete fatto rosolare della cipolla in una pentola, avrete aggiunto il riso e lo avrete lasciato tostare per qualche minuto e poi coperto di brodo vegetale, mescolando di tanto in tanto. Non sfumate col vino. A metà cottura aggiungete gli asparagi lessati, che avrete sminuzzato in piccoli pezzi. Mentre la cottura prosegue, in una terrina frullate la ricotta. Considerate circa 2 cucchiai per porzione e tenetela da parte. Quando la cottura sarà ultimata, a fiamma accesa, aggiustate di sale, pepate e incorporate la crema di ricotta, lasciandone da parte circa 1/3 per la guarnizione. Mescolate velocemente sul fuoco per circa 1 minuto. Impiattate disponendo il riso sul fondo di un piatto piano, ponendovi sopra, al centro, un po' di crema di ricotta su cui adagerete un rametto di rosmarino fresco. Spolverate con pepe nero macinato al momento e condite con un abbondante filo di olio extravergine di oliva. La trasmissione termina qui, l'appuntamento con l'Italia che cambia anche in cucina è per sabato prossimo. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. You've got to give a little. That's the glory of